e 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa. Ma è un colpo di mano, praticamente questo, è un golpe. Io stavo iniziando a parlare, benvenuti insomma al nostro appuntamento settimanale, mi spara e mi ha praticamente silenziato ingannandomi, io denuncio il suo sopruso. È la festa della mamma oggi, sì. Calmo. No, ho capito che è la festa della mamma, si però rilassi. Insomma... Va bene. Buon pomeriggio, Paoletti. Buon pomeriggio, allora facciamo gli auguri immediatamente a tutte le mamme, perché se ne è parlato, perché è così insomma ogni maggio. E allora benvenuti di fatto a tutte le mamme, ovviamente ancora auguri, benvenuti di fatto alla 19ª puntata di Easy Pop insieme a Franco Paoletti che vi parla e ovviamente del Bolognese Volante che mi ha ingannato e ha fatto questo golpe. Vabbè, l'avrei fatto comunque. E a proposito di festa della mamma, ancor più sono felice e mi approprio insomma di questo spazio per fare gli auguri a Maria Rosa che festeggia un anno in più e poi alla voce ufficiale del nostro spot, a Davide Bonini Gabriele, che è uno speaker di vecchia data, e quindi complimenti anche a lui, insomma va ricordato visto che ci siamo. E visto che ci siamo, oggi è anche il compleanno, se non sbaglio, di Scialpi, vabbè, così insomma per dire i VIPs che compiono gli anni. Ma inutilmente facciamo l'almanacco e lasciamo perdere e vediamo insomma di progettare, di parlarvi della puntata di oggi. Altro golpe. In che senso? Senta sottofondo. Mi sta spiazzando, che cos'è questa? Come che cos'è? Non riesco a... È Loreen con la tattoo. Ce l'hai nel preskit? Numero uno. Ah sì, esatto. No. No, devo ancora abituarmi, Eurovision, insomma. Sì, no, certo, no, ci sono. Mamma mia, Paoletti. Mamma mia, ma lei già oggi mi stravolge anche la mia scaletta e quindi abbiamo in sottofondo, sì, un altro golpe su, ovviamente, per la nuova vincitrice del 67esimo Eurovision Contest Song del 2023. Abbiamo Loreen direttamente dalla Svezia, se non sbaglio. Svezia, che ha brillantemente dato proprio 10-0, come si suol dire, a tutti gli altri, perché è stata votatissima per quanto riguarda sia la canzone sia lo spettacolo. Io avrei qualcosa da dire, però insomma non dico niente. Però complimenti anche al nostro Marco Mengoni, che ha tenuto alta insomma diciamo la bandiera italiana, perché ci siamo classificati, sì è vero, quarti, però insomma il televoto ci penalizza tante volte. Si è penalizzato, pare, dicono dalla regia. Però diciamo che alla fin fine noi abbiamo ricevuto il cosiddetto premio della stampa, della critica, perché è piaciuto proprio il brano di Mengoni, quindi insomma diciamo una medaglietta ce l'hanno data e ci siamo comportati bene, quindi bravo Marco. E a questo punto direi di ascoltarci ancora un attimo Loreen, che è così ha brillato con la canzone Tattoo. Tu Allora, festival, anche questo Euro Song Contest ce lo siamo lasciati, noi attendevamo notizie anche di prima mano direttamente da Eddie Anselmi, che salutiamo, so che era lì in diretta, da anche altri amici che abbiamo in ufficio stampa. Non abbiamo avuto insomma riscontro, però non ci preoccupiamo, the show must go on. E a questo punto direi di iniziare proprio, di prendere la palla al balzo e iniziare con le nuove uscite discografiche d'appannaggio di Alessandro Spina, che ci presenterà questo pezzo che è appena uscito, Umili, Umiliati il pezzo, quindi poi vi racconto di lui, insomma, rimanete lì. Siamo in una scala di valori, in contesti dissonanti e di sapori, rimani di sasso, mi mandano a spasso, col due di picche senza un asso, mi avevano pure acclamato, per giunta dicono hai spaccato, chiedendo il perché, l'errore qual è, buttarti fuori, scacco matto, umili umiliati, umili umiliati. Umili, umili, non considerati, avreste meritato, in fondo vi hanno cestinato. Umili, umiliati, umili, umiliati, umili, umili, non desiderati, avreste meritato, in fondo vi hanno depennato, chi ha avuto, avuto, chi ha dato, ha dato. Dimentichiamoci il passato, ricordi più belli non sono i cimeli, rimane in testa tutto il brano. Inaspettatamente fuori mi hanno tolto dagli onori, chiedendo il perché, l'errore qual è, con dignità mai sotto scacco. Umili, umiliati, umili, umiliati, umili, umili, non considerati, avreste meritato, in fondo vi hanno cestinato. Umili, umiliati, umili, umiliati, umili, umili, non desiderati, avreste meritato, in fondo vi hanno depennato. Umili, umili, umili, umiliati, umili, umili, umili, umiliati. Umili, umili, umili, umiliati, umili, umili, umili. Alessandro Spina, Umili Umiliati. È identificato questo personaggio come quello che porta la coppola, oltre di musica si occupa anche di radio, di teatro, di immagine, di cinema. Proveniente da Siracusa, nato 46 anni fa, esprime il suo messaggio in musica facendo appunto musica, lui le chiama di reportage, e musica autobiografica. Il suo esordio è del 2008 e poi piano piano insomma si è fatto conoscere nell'ambito indie, soprattutto perché praticamente la sua canzone è di denuncia. Lui continua a seguire i propri sogni e dice che è un dovere farlo, un dovere a cui non bisognerebbe mai rinunciare. Questa è la sua filosofia di vita, un po' anche la mia. Bene, a questo punto abbandoniamo anche Alessandro Spina e andiamo con Lupo, Fiume Leggenda, con Axl, vero regia? Di sì. Ecco, ascoltiamolo. Cielo blu, sento solo il caldo del tuo respiro, che ora mi fa stare bene, questi sogni non mi fanno dormire, se noi non stiamo insieme. Io vorrei svegliarmi spronzo come fuori c'è un gran cielo blu. Insieme. Un riff che rimane sicuramente in testa, lui si chiama Lupo Fiume Leggenda, il progetto di Nicolò Verti. Diciamo che il suo è un percorso cominciato, intrapreso con una band ed è arrivato via via a crearsi un, come dire, un spin-off, perché il progetto continua come solista. Quindi il Lupo Fiume Leggenda praticamente riparte da lui, proprio da Nicolò Verti. Non c'è più una band, ma gli ingredienti sono poi infine gli stessi, visto che comunque porta in giro appunto gli stessi pezzi che suonava appunto con il suo gruppo precedente. Quindi da qui abbiamo capito che non si fa chiamare appunto Nicolò Verti, ma come Lupo Fiume Leggenda, che ha già un credits nel mondo indie. E quindi che dire, che ci è piaciuto molto questo pezzo, estratto poi da un EP che appunto è stato pubblicato da un po', e questo è il singolo Da Traino. Quindi complimenti a Nicolò Verti, e a questo punto noi proseguiamo anche con un altro gruppo, Comfort Zone, con Determinazione. Fuori sembri il sole, ma so che dentro è un temporale. A 100 all'ora sopra un fuoristrada, avere voglia di farsi male. Avere voglia di farsi male. Avere voglia di farsi, ed è vero, si può imparare a farti più vicino senza fare, starti più vicino senza fare. Ma come si può agire senza sbagliare mai? Mi fiderei di me se imparassi a starti più vicino senza farti male. Da fuori sembri il sole, ma so che dentro è un temporale. A 100 all'ora sopra un fuoristrada, avere voglia di farsi male. Da fuori sembri il sole, ma so che dentro è un temporale. A 100 all'ora sopra un fuoristrada, avere voglia di farsi male. E soffrirei con determinazione, fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia, scrivere questa canzone. E soffrirei con determinazione, fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia, scrivere questa canzone. E soffrirei con determinazione, fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia, scrivere questa canzone. E soffrirei con determinazione, fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia, scrivere questa canzone. Comfort Zone, determinazione. Molto interessante. Easy Pop, Radio Città Fujiko, 103.10 da Bologna, Paoletti. Esattamente così, molto interessante il tutto. Allora andiamo a così sviscerare che cosa succede. La Comfort Zone è un progetto, per quello dicevo un gruppo, è un progetto nato a Roma, nel quartiere di Monteverde, che inizia nel 2019 ed è formato da diversi musicisti che oggi hanno intorno dai 18 ai 20, 21 anni. Propone praticamente un repertorio di musica originale indie rock contaminata da più generi, e in effetti diciamo che anche per quanto riguarda loro hanno avuto una interessante partecipazione al programma Dalla Strada al Palco, praticamente un progetto TV tipo reality in onda su Rai 2, e la giovanissima band romana praticamente si è presentata con un brano pop confidenziale, e da lì insomma diciamo che è nato il tutto, anzi gli ha dato maggiori spinte. L'artista principale si fa chiamare proprio Comfort Zone, in realtà sono diversi autori, vado a citare qualcuno: Asia Cannone, Daniele Mancini, Alessandra Mieli, poi Francesco Paradisi, Miconi e Lorenzo Pepe. Insomma, questi sono lo staff che ruota intorno all'immagine appunto di Comfort Zone, e devo dire che hanno bucato, perché insomma il brano piace molto FM e sta dando diversi risultati molto molto interessanti. Complimenti a loro, questa è l'anteprima del loro EP. Noi a questo punto dai Comfort Zone passiamo a un artista che già conosciamo, almeno per sentito dire, e stiamo parlando di Marco Baroni, che ci canta Come si fa. È il suo ritorno, quindi ce l'ascoltiamo. Il grande amore, come si fa ad incontrare un altro cuore, come si fa a immaginare un nuovo sole, come si fa ad arbitrare un'emozione, come si fa a dire voglio andare via, come si fa a sfanculare l'apatia, come si fa ad inventare l'allegria, come si fa? Sono parole a fiumi, luoghi comuni. Alle giornate, come si fa a smettere con le cazzate, come si fa a scavalcare le inferiate, come si fa se sono sempre più appuntite, come si fa a prendere una decisione, come si fa a farlo senza esitazione, come si fa se infine mi ritrovo a dire come si fa. Perdere continuamente il filo della ragione in base a ogni tua perplessità, dell'opinione che la vita in fondo è tutta qua, della passione tanto prima o poi svanirà e ci ritroveremo ancora da capo. Ma io ti dico che ho soltanto una necessità, che è rimanere saldo e lucido nella realtà. Siccome ognuno tiene in tasca la sua verità, se c'è qualcosa che non torna potrà insegnarmi. Marco Baroni, come si fa? A sì, Easy Pop, puntata numero 19 di domenica 14 maggio, più che maggio sembra novembre. Sì, in effetti. Però va bene lo stesso. Ho le mani praticamente ghiacciate come quest'inverno, però fa niente, sono io, un po' difettoso probabilmente. Ma no, sarà il cambiamento climatico. Ah, beh, sì. Orsù, per banco. Non lo volevo dire, per no, non ecco. Diciamolo. Va bene, a questo punto invece Subliminiamolo e parliamo di Marco Baroni, da non confondere con Alex Baroni, il compianto cantautore che conosciamo, insomma, già corista per tanti artisti, non ultimo per Giorgia, ma tanti tanti altri, non sto qui a elencarli. Marco Baroni, insomma, nato a Sassuolo nel 1983, studia chitarra classica e nel 99, a soli 16 anni, pubblica per la MBO Un'abitudine, e poi da lì si fa praticamente notare e arriva nel 2006 con un bel pezzo che si chiama La mia generazione, e anticipa la partecipazione a Sanremo Giovani l'anno dopo, 2007. Poi da lì è un tripudio, perché praticamente ha sempre lavorato con diciamo alti e bassi, ma il suo talento è quello di scrivere canzoni, e infatti ne ha scritte tantissime per veramente grandi artisti, tra cui Neck, ma non solo, Mario Biondi insieme poi a Marco Masini, ha lavorato con Fabrizio Moro e poi tanti tanti altri, non ultimo Alessio Bernardei, ex frontman dei DR Jack, che ha portato poi un suo brano al Festival di Sanremo, visto che lui insomma a Sanremo c'è già stato. lato, e poi insomma diversi singoli e quant'altro, appunto presta la sua penna per gli artisti, alcuni che sono stati finalisti a X Factor. Detto ciò, bravissimo anche lui e soprattutto bentornato con questo singolo Come si fa. Nel frattempo noi voltiamo pagina e ascoltiamo nuovamente un nuovo ritorno graditissimo, la voce conosciutissima, anche il personaggio. Lo annunciamo, l'annuncia lei? Allora, sul piatto numero 2, Piotta con Tutti a... A... Ci sono mattine che ti svegli nel caos, sulla testa c'è un'insegna che lampeggia knockout, presa a pugni dalla vita tutti e 12 round, che ti appelli alla Madonna e i tuoi 10 anni di scout, e poi in guasto alla corrente col palazzo in blackout, mentre il gira rischi andava con quel pezzo che down, servirebbe tanto funky proprio stile James Brown, ma la batteria lampeggia e dice solo ciao ciao, ciao ciao, andate tutti a fanculo, soprattutto te, che senza te non vado, non ci divertiamo, andate tutti a fanculo, soprattutto te, che te sei il numero uno e chi lo sa il perché. Sale, scende, boom, è la febbre che non torna giù, è quest'autobus che ha bucato quando sali tu. Sullo scooter salgo al volo, ma non va, costava come un Cartier, l'ultimo pieno di gas, colazione alla Sindona che non si sa cos'è, se cianuro o caffè, e qui non va manco il web, ma per vedere poi sta roba, ma lo sai che c'è, che vado a vivere su un'isola là, più lontana che c'è. Andate tutti a fanculo, soprattutto te, che senza te non vado, non ci divertiamo, andate tutti a fanculo, soprattutto te, che te sei il numero uno e chi lo sa il perché. E la gente mi sorride, pare il cabaret, e dice bella frate, ma poi non sai perché, alle spalle ti accoltella come Giulio c'è, e allora sai che c'è, andate tutti a fanculo. Travolgente questa playlist che come sempre la sua redazione musicale ha scelto in maniera direi sublime. Sì, lavorano bene, devo dire la verità. Io devo molto conoscere bene questa redazione musicale. Comunque in sottofondo Piotta con Tutti a, e non dico cosa, tanto l'ha detto lui, quindi. Allora, è certo. Nel suo ultimo libro, Il Primo Rap, si chiamava così, per la Castello Editore, è uscito nell'ottobre 2022. Ormai tutti questi praticamente cantautori scrivono anche, quindi arrotondano. Viene ricordato affettuosamente come il filosofo della strada, ed è proprio così per quanto riguarda Piotta, che fa uscire questo singolo, anche perché annuncia intanto il suo tour estivo che lo porterà in giro per tutta Italia insieme alla sua band, insomma, tradizionale. E poi perché fa 2 ore di show, ma bello peso, bello interessante, con i suoi pezzi storici, dalla Grande Onda, insomma, Super Caffone, tanti tanti altri. E quindi, insomma, si racconta e si mette a nudo, e devo dire che sono 2 ore di veramente di divertimento. E poi perché questo album su cui sta lavorando è veramente positivo, molto solare, e quindi siamo sicuri che questo praticamente pezzo andrà molto. Tra l'altro il video che è appena uscito per la Borotalco TV, se non sbaglio, è stato girato, poi non so se è stato girato a Budapest o che so io, comunque sì, in un paese dell'est mi sembra, e dentro ci sono praticamente dei camei, se così vogliamo dire, di Saturnino, che è poi il bassista di Jovanotti, ma anche di Tonino Corotone, e delle bambole di Pezza. Quindi complimenti, un'ottima occasione anche per rivedere El Piotta come oggi, come si è trasformato oggi. Detto ciò, regia, velocemente, abbiamo ancora tanta buona musica, vero? Cosa abbiamo scavato nell'indie di queste, le uscite discografiche, insomma, di questa settimana? Lei lo sa? Numero 1, Nimsai, Tira e Molla. Il sole di notte, la luna tramonta, sta La vita alla fine non tornerà, ma chi va là? Son fatta di lacrime, carne e ossa. Esistere soltanto non mi va, non basterà. Cammino i tuoi sguardi perversi, tutti anelli per te. Dentro un milione di cashmere, penserò a noi. Sul mondo ci sto a piedi nudi, tutti animi che se cado mi rialzo, ma il tempo non fermerà le onde. Ed immagino il tuo nome nel mio fatto, con i miei occhi pieni fino all'orlo. Riempio il bicchiere di rabbia, amore e vanità. Pregherò stasera forse all'alba. Non ti scrivo neanche più come va. Qua torno a me tutto cambia, dal giorno alla notte. Tu portami dove svanisce l'ansia che sale, tutte le scuse sciogliti come la neve o il ghiaccio d'estate. Io metto aeropatica pianga se fuori piove. Ed immagino il mio fato nel tuo addio, con i miei occhi pieni fino all'orlo. Tu mi dici che io ti mando giù di corda, ti rimolla, dimmi ancora ancora. Tu mi urli dietro come fa la mia testa, squarciagola. Nim Sai, tira e molla. Mi rendo conto, guardando qua il piatto, che ormai i brani si sono tutti adeguati allo standard Eurovision e durano tutti mediamente 2,45, 2,40, 2,30. Eh certo, se devono scivolare nei telefonini, dove si ascolta molto più, scivolano proprio così, vanno, cioè, sono liquidi. Sì, perché sono liquidi, no? Quindi almeno io lo dico, liquidi. Vanno, passano e quindi devi ascoltare, se non piacciono via, si eliminano e quindi da qui appunto mi hanno spiegato il perché appunto si fanno gli EP e non più i CD o insomma gli album di una volta, erano 10 pezzi, adesso è tutto tagliato, si va tutto in velocità e quindi praticamente 5 pezzi è già un album in pratica e quindi via, si fanno appunto brevi, quindi si mettono le cose, la ciccia per dire, la ciccia, e dopodiché a proposito tutto di ciccia devo via. Fare pressione perché sono già le 15:27 e allora io vi parlo velocemente di Mimsai, il progetto di Yasmin Corrado, 19 anni, di Avellino, ne avevamo già parlato. Lei incide per praticamente la label Aurora Dischi, che tiene insomma questi giovani a battesimo. Devo dire che li trova molto molto interessanti, ci sono tantissimi appunto autori all'interno di questa label. Per la Virgin Music Universal devo dire che questo è il nuovo singolo per Nimsai, a cui aveva già appunto esordito con Luca Tropicale e Sabato, che sono state poi con successo inserite nelle playlist di Spotify. Detto bene, ciò, ultimo brano, Brando Madonia, Io non odio te, dopo Paoletti ce ne parla. Assolutamente. Che non vuoi sentirti dire ad alta voce. Il cielo a buchi da cui cadono le gocce, le bevi ancora sete, io non so che cosa fare. E sfiorirai

A Bologna ci siamo noi di Dogbo e conosciamo bene le esigenze dei tuoi amici a quattro zampe. Dog e cat sitter, educazione, passeggiate, accudimento, visita a domicilio, asilo, corsi e stage, anche quando tu vai in vacanza. Maggiori info al 327-395-8183 o dogbo.it. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Ed eccoci arrivati in quella che è di fatto la seconda parte di Easy Pop insieme a Franco Paoletti e il Bolognese Volante, e qui la domenica presenti sempre per presentare appunto il meglio delle indie della settimana, insomma le uscite discografiche italiane e non, e abbiamo scovato qui e apriamo appunto la seconda parte con Laura Dimitri che ci presenterà L'universo sei tu. Lei è un'attrice ma nonché anche cantante, perché suo debutto risale mi sembra al 2017 con il suo primo EP. Ritorna insomma alla musica con il brano che ho ora citato, ovvero sia L'universo sei tu. Ascoltiamola e poi finisco di parlare di lei. Non riesco a capire questo bisogno, aspetto da tempo, mi sveglio dal sonno, avverto qualcosa che cambia. Vorrei tanto vedere, ma ho anche paura, mi confonde la luce, non ne ho mai vista tanta, ripeto. Ho anche paura. Eccoci qua, hai apprezzato la voce anche per la Sony Messico, non solo perché praticamente è stata la voce, praticamente la sigla di una sitcom, se non sbaglio, che è andata in onda su Telenorba, e poi anche lei è una conduttrice TV per appunto RTM, se non sbaglio, quindi collaborazione anche con Radio TV. Complimenti a lei. A questo punto lei ritorna alla musica. Questo è praticamente è l'inizio, ovvero l'anticipazione per il suo nuovo album. Molto che bella, dire, questa, molto bello, una bella voce. Sei tu, bella. Complimenti. A questo punto noi voltiamo pagina, abbiamo, anzi lasciamo lo spazio ai Water Baby con 911 o 911, o 911 così. Call me when you need someone. I could be your 911. Yeah. could be a 911. I could be your last lover, you could be my first. For you, I'd do the things that I said I'd never do. For no other, and I'd share your sorrows. Yeah, I could be your last lover, baby, I have a nerves. I could get it right, or maybe I'll make it worse. I don't know if you can carry my sorrow. Heart's so heavy when you tell me that. Softly, I got your softly. Call me when you need someone. I could be your 911. Wee wee wee wee wee wee. Yeah. Call me when you need someone. I could be your 911. Wee wee wee wee wee wee. Yeah. Even when you lie, I believe you. One day we gon' die, we should have some fun. And if I had it all, I still need you. I think it's gonna rain, baby, let's go home. Pick it up and eat lunch. I'm gonna stuff, but only if you wanna do something. Maybe we could go somewhere. Maybe we could be some. Call me when you need someone. I could be your 911. Nine, nine, one, one è un numero telefonico, non ricordo se è per chi è disperato oppure un pronto soccorso, oppure un telefono amico, però praticamente questa è la sostanza. L'artista si chiama Water Baby, arriva direttamente da Stoccolma, è lui che è praticamente ancora la Svezia. Ancora praticamente così sensibile, che capisce l'animo umano, ha voluto raccontare questa esperienza, insomma, di questa solitudine, e soprattutto per questa storia d'amore che finisce, questa disperazione. Molto molto interessante in realtà, e devo dire che questo è l'anticipazione anche per lui di un EP che uscirà a giugno. Noi appunto l'abbiamo in anteprima e l'abbiamo voluto condividere con voi. L'annuncio appunto di questo EP sarà FOAM, se non sbaglio, uscirà a giugno su tutte le piattaforme, quindi dovremo attendere ancora un po', però insomma so che questo singolo è stato accolto molto molto bene, come dico io, ovviamente. No, non lo dico. Dico invece che la sua redazione musicale ha scelto una seconda parte quasi tutta in inglese. È vero, sì, confermo. Brani di respiro internazionale. Corriamo con il prossimo brano, Paoletti. Certo, sarà stata così proprio l'influenza dell'Euro Song Contest. Abbiamo i Lazy Queen e ci presentano New Moon. Like a man. Quando si dice che i social fanno il miracolo, in Growing Pearls compaiono i precedenti singoli appunto dei Led Zeppelin, che sono amatissimi, quindi una compilation per loro in attesa appunto di un EP invece di inediti. L'ingegnosità di questi brani ha permesso ai Led Zeppelin di catturare l'attenzione di Amy Lam della BBC Radio 6 Music e di portarli insomma al successo. In realtà loro sono partiti stranamente da praticamente New York, se non sbaglio, dove si trovava il diciamo il leader carismatico, ovvero sia come si chiama, stavo cercando di ricordare, vabbè, non ricordo. Bene, i Lazy Queen praticamente sono partiti da New York, dove il colombiano e norvegese Henrik Garcia Soberg li ha fondati. Poi arriva insomma a suonare un po' come si suonano le band, arriva a captarlo la BBC e da lì insomma è un grande grandissimo successo, perché hanno inciso 3 EP di grandissimo successo e adesso vengono anche in Italia perché vogliono conquistare ovviamente il mercato italiano, che è sensibile anche a questi suoni, voglio dirlo e voglio ribadirlo. Che dire? Dopo che hai detto ciò, mi scusi, adesso viene a trovarci Bathsheba Everden con Honest. Delicato e sofisticato questo brano proposto da Bathsheba Everdeen, Honest. Sì, un pop diciamo aperto, elettrizzante, molto interessante, libera da restrizioni pop convenzionali, possiamo dire così. L'artista parla direttamente al cuore dei suoi fans con questo pezzo appunto Honest. Lei dice che proprio l'onestà è la sua filosofia di vita e quindi insomma dà spazio ai suoi sentimenti, e ha ragione, perché questo singolo è davvero una bomba, ci è piaciuto molto, per una chicca proprio una perla, e devo dire che insomma cattura l'ascolto e piace molto. E tra l'altro su etichetta Cut Music la produzione poi è italiana, attenzione, quindi complimenti doppi complimenti, perché ha scelto bene, ha scelto un ottimo staff per quest'artista, che il nome è un po' difficile, Bathsheba sera, sì, Everden, sì. Honest. Bene, a questo punto archiviamo anche lei e andiamo con Fabio Gomez. Ah, qui si balla adesso. Ci balla un po', che Fabio Gomez non ha bisogno di grandi così presentazioni, ci presenta il suo ultimo singolo, si chiama Dirty Liar. Dirty Liar. Porco bugiardo. Ah, ok. Mi è scritto male qui, Tell me why you tell me new lies every day. Every time you talk, your lips give it away. Tell me why you only wanna play and betray. Even making love, you keep on lying. No shame, no shame. You don't see me. You don't hear me. No shame, no shame. Now it's time to stop playing your game. Just a liar, dirty liar. You love playing away. You keep treating like a cat in a black alleyway. You send me 10,000 selfies smiling away. You're a Judas and everyone leads you astray. You don't see me. You don't hear me. No shame, no shame. Now it's time to stop playing your game. Balla decisamente a Easy Pop oggi in questa puntata numero 19, Paoletti. Assolutamente, una strizzatina d'occhio al clubbing, a queste sonorità che sono danzerecce, che richiamano all'estate, non avrebbe sfigurato assolutamente, no, all'Euro Song Contest. Direi di no. E io vi invito a visionare il video che è arricchito dalla presenza, oltre che del DJ, quella di un tal Nikita, che consente al samurai, che viene praticamente interpretato è il protagonista, ovvero sia Gomez stesso, praticamente che gli leva una katana e poi praticamente c'è questa geisha intrigante che deve distrarre questo samurai. Insomma, vedetevi questo video dal sapore così occidentale, esotico. Orientale. Bene, dopo questo pezzo Dirty Liar. Siamo quasi nel finale della seconda parte di questa puntata. Di questa puntata, certo. Sì, sì. Abbiamo la prossima, Urbania, che ci presenta Dopo l'autunno. Da cui non siamo mai usciti. Esatto. Partire per sempre, tipo lo faccio uno scherzo. Alice che il mondo lo guarda con gli occhi di un cieco. Lo pensavano tutti, lo capivano tutti. Partire per sempre col sole a Cuba. La tua pelle nel mare si spella tutta. Volevi avere solo un po' di pace, riposare il cervello tipo d'estate. Come quando alle medie sentivi gli uccelli cantare, affacciata sul bordo della finestra. Pensavi di stare in un'astronave, dall'alto del cielo dicevi scusa a tutti gli amici che avevi intorno. Poi la professoressa si è messa a gridare, perché in tutto questo non stavi al posto. Nessuno ti vede, pensavi di notte. La doccia bollente che ti consola. Piangevi dopo il lavoro. Ricordo di quando piangevi, ma dopo scuola. È arrivato il diploma e dopo l'autunno è arrivato il momento di chiedere aiuto. Un fulmine in cielo non è caduto. Quando avevi bisogno non c'era nessuno. Qualcosa è cambiato dopo di te. Quello che faccio non sa di nulla. Vedi cosa mi hai fatto, ma eri un'adulta. E tutto ti aveva già delusa. E tutto ti aveva già distrutta. Qualcosa è cambiato dopo di te. Io quello che faccio non sa di nulla. Tu pensavi lo stesso prima di me, prima di noi, prima di tutto, prima di avere in testa il tuo nome per sempre. Diavolo, portami via, portami ovunque, pure in un posto qualunque. Diavolo, portami via, diavolo, portami via. E bruci come un albero maledetto, entri nei miei incubi, portami negli inferi. Rami che bussavano sul mio tetto, spezzato poi di botto, di sogni così vividi, scrivili. Dicevi fidati, buttati, poi sei sparita. Ricordami cosa di male c'è nel male, o cosa di bene c'è nel bene. Nessuno ti vede, le cuffie di notte, la frangia sugli occhi, ti senti sola. Ridevi dopo l'amore, ricordo di quando ridevi per ogni cosa. È arrivata l'estate dopo l'autunno, è arrivato ancora un momento brutto. Il fulmine in cielo non è caduto, perché avrebbe spaccato tutto. Cosa fanno due ragazzi che sono vicini di casa e vanno a scuola insieme, ma formano un gruppo? Così è stato, e allora un voi per gioco, e cominciano con l'autoproduzione fino a che la loro voglia di farsi vedere, conoscere le loro esperienze, praticamente li portano a partecipare casualmente alle riprese del film di Tommaso Paradiso, Sulle nuvole. Poi sempre a Roma, si sanno che è una città effervescente, riescono a entrare in un certo giro di appunto case discografiche ed altro, e finché decidono ma sai che se siamo bravi ci conviene appunto provare a fare il nostro rap. Però il loro rap, che piace soprattutto agli addetti ai lavori, è un rap di ricerca che è lontano, diciamo, agli stereotipi del rap, e anzi loro guardano al futuro, al rap degli anni 20, che praticamente si discostano appunto anni luce da quello che da cui siamo noi abituati ad ascoltare il rap degli anni 80-90, e così riescono così a ricrearsi, a ritagliarsi un loro posto al sole, anzi ne vanno sicuramente così seguiti con molto interesse. Complimenti agli Urbania, che sono in due. E a questo punto invece siamo giunti alla conclusione con Matthew Lee, che già conosciamo un po' come personaggio. Qui vedo che c'è un featuring, però, regia. Certo, un nome, e vedo che c'è un nome di tutto rispetto. Abbiamo fretta, Paoletti, Bobby stringa. Solo insieme a Matthew Lee, che cantano questa tradizionalissima Can Help Fall in Love. Ascoltiamolo. Like Don't Fall in Love fu scritta nel 1961 da George Weiss, Hugo Peretti e Luigi Creatori, gli inventori del suono di Sam Cooke, per la colonna sonora di un film, Blue Away, che aveva come protagonista lo stesso Elvis Presley, che è l'originale di questa canzone. In realtà la melodia poi era già stata scritta nel 1700 da Martini, il tedesco, Plaisir d'amour, su un testo di Jean-Pierre Clarisse de Florian. Il brano fu riadattato con un nuovo testo per Elvis Presley, il quale insistette per registrarlo contro il parere dei produttori del film, ed è diventato una delle canzoni dolci da struscio, classiche, lenti, classica, più famosi nel mondo. Certo, un classico qui rivisto da Matthew Lee e chi se non altri Bobby Solo, che praticamente canta con un artista italiano che si è così stabilizzato negli Stati Uniti, ma che sta facendo delle tournée in tutta Europa e in America, e praticamente una star, un po' meno forse qui, nel senso che non è così conosciuto, però Matthew Lee veramente ha un carnet di tutto esaurito, 7 album all'attivo, come vi dicevo. Prossima tappa a Dubai, tra l'altro, leggevo, oltre che qui sempre in Italia, buono, sempre buono. Lui vinse, tanto per capirsi, Matthew Lee vinse, se non sbaglio, nel 2015 con l'album D'altri tempi, pubblicato per la Carosello. Partecipò al Coca-Cola Summer Festival e lo vinse. Tomò nel 2015. Complimenti quindi a lui, a Matthew Lee, che è made in Italy. Col sole ad Elvis Presley. Noi qui chiudiamo questa col puntata. Sole? No, niente. Col sole, niente. Sole, ciaone. Chiudiamo questa puntata numero 19. Speriamo di aver fatto divertire tutti coloro che ci hanno ascoltato, in particolare Marzia e Maria Rosa. Sì, ma certo. Salutiamo tutti e tutte. Grazie, grazie. Vi diamo appuntamento a domenica prossima, ovviamente, stesse frequenze, stesso orario. A breve le corrispondenze di Dani Coraucci, e poi di là abbiamo Amalia Picella per il suo format C'era una volta il West, formato per informarsi sulle novità cinematografiche. Detto ciò, Franco Poletti si congeda, vi manda fra 7 giorni un grande bacione ancora a tutte le mamme. Ciao ciao! Bye bye dal Bolognese Volante e da Franco Paoletti. Avete ascoltato il C-Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b